lodarte, Signor, per esprimerti la gioia del mio cuore. Se son qui, do grazie a te per il tuo immenso amore, la tua gioia, la tua unzione voglio in me. C'è un forte desiderio di lodare te, Signore, per esprimerti la gioia del do grazie a te per il tuo immenso amore, la tua gioia, la punzione voglio in me. Sento già la tua voce nel mio cuore. Di lodare te, Signore, per esprimerti la gioia del mio cuore. Se son qui, do grazie a te per il tuo immenso amore, la tua gioia, la funzione voglio. La tensione